Comunemente noi spesso chiamiamo stress, no? Chiunque di noi nella sua vita si è, so cosa c'è dentro di me, si è trovato ad un certo punto a dire la famosa frase: sono stressato. Questa immagine l'ho trovata perché sono andato un po' su internet a capire cos'è lo stress. Effettivamente. E esce subito questa immagine, che credo molti di voi stanno dicendo, e questa mi rappresenta, no? È quello che ho pensato io anche. Noi spesso siamo così, no? Ci troviamo così. Ma che cos'è lo stress? Grazie, Vito. Che cos'è lo stress? Io sono andato un po' a fare qualche ricerca, dove appunto mi sono scontrato con quell'immagine. E lo stress è innanzitutto per noi ormai è diventata la causa di ogni male al mondo. Che ne so, ti cadono i capelli? È lo stress. C'è troppi capelli? Sarà lo stress. Hai i brufoli in faccia? È lo stress. C'è la pelle troppo secca? È lo stress, no? Vai a fare le analisi e ti trovano i globuli bianchi che sono troppi. È lo stress. Vai a fare le analisi, sono pochi i globuli bianchi. È lo stress. La fame nel mondo è lo stress. È tutto colpa dello stress ormai. Ma che cos'è lo stress? Mettendo un po' su internet, ho visto che lo stress non è altro che un nome così colloquiale, diciamo, un nome più semplice, di una sindrome che si chiama sindrome generale di adattamento, che non è altro che la risposta che l'organismo mette in atto ai cosiddetti stressor, cioè cosa sono? Gli agenti che provocano stress, cioè in poche parole, le cose che ci stressano. Come il nostro organismo reagisce alle cose che ci stressano è lo stress. Non so se si è capito. Ad esempio, uno stressor è la fatica fisica, no? L'impegno a lavoro, no? Le pressioni culturali anche che ci sono un qualcosa che applicata al nostro corpo ci provoca stress. E ogni persona lo gestisce in una maniera diversa. Ho trovato che lo stress può dipendere dalla personalità, dalle capacità intellettive, dal livello culturale, dalle condizioni socio-economiche del posto in cui si vive e dalla soggettività anche dell'evento, no? Cioè come noi lo viviamo, ad esempio, uno dei fattori principali di stress è il cambiamento. Quando perdiamo una cosa in cui ci sentiamo comodi, andiamo sotto stress, no? Le sfide mai affrontate sono un qualcosa che ci provoca stress. Se sei abituato, ad esempio, a parlare in pubblico, è ovvio che la cosa ti porterà meno stress rispetto a chi lo fa per la prima volta, no? Quindi mai cadere nell'errore di giudicare un po' l'altro in questo, come facciamo noi spesso. No, perché tutto comincia con qui da noi. E quello si stressa per così poco. E io che devo dire che faccio questo, questo, questo e questa? Quante volte noi lo diciamo? Beh, lo stress è soggettivo, ok? Ognuno di noi vive un evento, una sfida in maniera diversa rispetto all'altro. Ma, c'è un'unica soluzione per tutti quanti noi a questo stress. Qual è? È giusto, Gesù, cioè, più facile di così la domanda voleva, forse era troppo semplice. Così, sapendo bene questo io, qualche tempo fa ho deciso di andare a fare un ritiro, ok? Era un anno e mezzo fa all'incirca ed io ero in un periodo difficile, dice quando mai? Vabbè, ero in un periodo difficile allora, e decisi di prendermi 3 giorni da lavoro, a prendermi il mio iPad, la mia Bibbia, i miei libri e andarmene a Ruvo, no? Alla volta del rifugio. Per chi di noi non conosce cos'è il rifugio, è un centro con degli alloggi, ma soprattutto con tanto verde, che è un luogo quindi perfetto anche per potersi rilassare un po', per poter stare in silenzio, no? Quindi ho preso tutto e sono andato alla volta di Ruvo e sono andato lì, da solo, per 3 giorni, a stare con Gesù. Lo sapete che non è stato così semplice? Certe volte siamo più innamorati dell'idea di doverlo fare che poi quando arriviamo lì, io dopo un'ora non sapevo più che cosa fare, che cosa dovevo dire. Io credo sia dovuto anche, anzi sono certo che è dovuto anche a, ma quello che noi siamo abituati a vivere, no? Siamo costantemente abituati ad essere bombardati, anche mentre stiamo con Gesù, di notifiche del cellulare, di chiamate, di persone che ci chiamano. Siamo abituati ad avere sempre quell'occhio sull'orologio. Non importa quello che facciamo, c'è sempre un qualcosa che deve venire dopo, c'è sempre un qualcosa che deve mettere il limite a quello che stiamo facendo ora. E quando questa cosa manca, si va nel panico più assoluto, non avere un orologio da guardare, non avere nessuno stimolo esterno, no? E voi sapete che questo vale anche, no, per il silenzio. Noi non siamo abituati al silenzio. E questo mi ha fatto ricordare una cosa molto importante. Non so se voi sapete che in realtà, anche quando a noi ci sembra di stare in silenzio, in realtà c'è sempre un rumore ambientale in cui, a cui il nostro orecchio è abituato e quindi è come se non lo sentissimo più. Tant'è che hanno fatto questo esperimento in America, hanno costruito una camera anecoica, si chiama. Che cosa è? Semplicemente una camera insonorizzata, ma così insonorizzata che praticamente non senti veramente nulla, assorbe il 99,9% del suono. Che è successo? Ci hanno messo una persona dentro e hanno visto quanto questa persona resistesse. Voi dite, vabbè, in silenzio? No. Praticamente è stato provato che in media una persona impazzisce dopo 45 minuti in questa stanza. Perché? Perché innanzitutto perché il nostro cervello prende l'orientamento dall'orecchio, dai suoni che sono attorno, e lì non ce ne sono. Quindi c'è proprio disorientamento totale. Un po' perché stando nel completo silenzio si possono sentire cose che non sentiremmo altrimenti. Si può sentire il proprio cuore battere. Senza nulla, senza, come si chiama, stetoscopio. Si può sentire il proprio sangue che scorre nelle vene. Cioè, immaginate questo per 45 minuti, no? È stranissimo. E sapete, io credo che lo stesso questo vale con Dio. Quando spegniamo attorno tutto e rimaniamo nel silenzio, beh, si possono sentire cose che non sentiremo altrimenti. Si possono ascoltare la voce di Gesù, diventa la cosa più naturale al mondo. Nei quei 3 giorni, per me sono stati 3 giorni di bellissimi, di silenzio, di arresa, di preghiera, di adorazione, di perdono verso di me e verso gli altri. E Dio mi ha davvero parlato tanto, ha ricostruito il mio carattere, anche di adoratore che si perdeva, mi ha ricostruito il mio dono profetico anche. È un avvenimento che mi ha colpito tantissimo, che voglio condividere con voi. Quando sono arrivato lì, ero andato lì con l'intenzione anche di lasciare alla croce alcune cose. Perciò volevo come posso dire, visualizzare una croce da qualche, come simbolo. Per me nessun significato particolare. Semplicemente una cosa che mi ricordasse. Quindi nelle mie passeggiate nel rifugio ho segnato con un bastone una croce per terra. Chi di voi conosce il rifugio sa che nel campo lì c'è una specie di breccia e sabbia, quindi insomma ho fatto un bel solco che non se ne va tanto facilmente. E quando passavo da lì, no, era sempre una cosa così, un simbolo per me, niente di particolare. Però che è successo? Che non ne ho fatte poi tutte queste passeggiate io, perché il secondo giorno c'è stata una tempesta allucinante, cioè una pioggia, e quindi praticamente ho passato il secondo giorno chiuso in stanza. Per intero non sono uscito proprio, perché non si poteva, era inverno pieno e pioveva fortissimo. Il terzo giorno era finita la pioggia, mi sono affacciato un po' fuori, tipo la colomba di Noè, per vedere se si potesse, e aveva smesso di piovere, faceva freddissimo ovviamente, e sono uscito, come sono uscito così per stare un po' fuori, perché poi... Oh, voi immaginate, stavo da solo per 3 giorni, ogni cosa è un diversivo, no? Cioè, uscire fuori dalla porta. Ho pensato subito, chissà quella croce, se è rimasta, se sta ancora lì. Allora sono andato, ho detto, ma devo andare a vedere. Mentre andavo, nella mia testa, già mi immaginavo che quella croce fosse ancora lì. No, e già immaginavo Gesù che mi diceva, ecco Leo, hai visto, nonostante la tempesta, nonostante le circostanze della tua vita, io sarò sempre lì, perché quella croce sarebbe stata lì ancora precisa e perfetta, non importa tutto. Mentre lo pensavo, arrivo là e non c'era più. Ma proprio niente, nemmeno il segno lontano, niente, sparita completamente. Lì Gesù mi ha parlato, mi ha detto quello che lui voleva dirmi veramente, non quello che volevo io che dicesse lui. E mi ha detto, ecco, questo è quello che succede se ogni giorno non ti preoccupi di ricalcare quella croce. Le circostanze vengono, i dubbi sopraggiungono, le ansie e le paure prendono il sopravvento, lo stress. E quando cercherai quella croce sul terreno, non la troverai. Se ogni giorno non ti sarai preoccupato di ricalcarla. Che cos'è quella croce sul terreno? Il mio tempo con Gesù. E così sono tornato a casa. Ho capito tutto. Ho capito tutto, finalmente. Quindi ora che devo fare? Mi devo ricreare quel ritiro, quel tè a casa ogni giorno, no? Un poco, ovviamente, non è che posso stare, non faccio più niente, però un poco lo devo fare, quello devo ricalcare quella croce, quindi ho cominciato. Quando lo faccio? Allora, fammi pensare un po' alla mia vita. Allora, alle 8:30 io comincio a lavorare, finisco alle 6, poi alle 6 ho sicuramente... qualcos'altro da fare, ho sicuramente un impegno qui in chiesa, una riunione, un appuntamento, poi sapete com'è, ho una famiglia anche, una bambina piccola, quindi quando non ci sono queste cose devo pensare anche a loro, devo stare anche con loro, gli impegni familiari anche, no? E arriva poi la sera che sono morto, ovviamente. Quando è il momento migliore, quindi? La mattina. Per me era la mattina. Sono un tipo mattiniero, quindi non c'è nessun problema nel farlo per me. Quindi sveglia alle 5:30, che sembra, che lo so che sembra assurdo per molti di voi, ma per me è un po' prima del solito, quindi non vi preoccupate. Quindi sveglia alle 5:30 e vai subito con Gesù. E ho cominciato a fare questo. Ma cosa è successo? Che così come quel tempo, la mattina, è quel tempo anche libero per stare con Gesù, può essere il tempo libero anche per fare altro. E cosa è successo quindi? Che piano piano le distrazioni sono arrivate. E quindi cominciavo a passare i miei tempi con l'occhio sulla Bibbia e con l'altro occhio sui turni che non avevo fatto ancora ed era tardi, i turni qui. Con un occhio sulla Bibbia e sull'altro, con l'altro occhio al computer a scrivermi delle cose che mi erano venute, delle cose per l'appuntamento che devo fare, per la riunione, che in quel momento mi sono venuto, non le posso far perdere assolutamente, le devo scrivere, ora. Con la testa in preghiera, a metà, l'altra metà, ma come dovevo fare quel software al lavoro, che il giorno prima non ci riuscivo proprio, e ora come dovevo fare, quindi a pensarci, io faccio il programmatore nella vita, diciamo, come lavoro, a fare il programmatore, fare software, un po' come risolvere problemi di matematica tutta la vita, più o meno. Quindi insomma, un po' stancante, però ti arrivano le illuminazioni anche lì, e mi arrivano pure la mattina presto. E insomma, tante cose hanno cominciato a intervenire, tante cose mi hanno portato indietro. E che dire poi della bambina, no? Perché c'è una bambina piccola di un anno e mezzo, quasi. Allora tu stai lì, no? Alle 5:30, alle 6, apro la finestra, io ho la vetrata, sto lì pronto, allora, a Gesù, voglio ascoltare te, voglio sentire il pane. Tu un tratto senti... Ed è sempre più forte. E poi quel cellulare che non dovrebbe squillare, perché chi vuoi che ti chiami o che ti squilla alle 5:30, 6 di mattina, pam, si accende, perché è senza suoneria. Regina, è mia moglie, puoi venire a prendere la bambina per favore? È lì. Game over. Che è successo? Questa è la mia esperienza, ma immagino che tanti di noi possano rivedersi. Pian piano, quello che succede è che continuiamo a vivere le nostre vite, fatte anche di cose buone, ma che lasciano indietro Gesù e il nostro tempo con Lui. Semplicemente non ci riusciamo a coinvolgerlo. Ansia, paura, depressione, stress cominciano a prendere il sopravvento. E sono tornato al punto di partenza. Cos'è mancato? Puoi toglierlo, Vito. Che fa paura. Cos'è mancato? Il tempo con Gesù. Ricalcare quella croce. Ma cosa diamo la colpa quando la nostra vita manca di preghiera? Agli impegni? No, c'è troppo da fare. C'è troppe cose da fare, ma un dietro l'altro. Al tempo? No, a notte. Chi c'ha tempo di sedersi lì, aprire la Bibbia, leggere? Alle circostanze? No, mo non ho la testa. Agli impegni, al tempo, alle circostanze. Queste sono le scuse che ci diamo. Mi dispiace dirlo, molto così, nero su bianco, ma la mancanza di preghiera non è un problema di tempo, né un problema di impegni, è un problema di fede. Se preghiamo poco, ne vediamo che ogni cosa prende il sopravvento su di essa. E perché probabilmente, è tutto sommato, non crediamo davvero che la preghiera porti a grandi risultati. Non almeno a quelli che potremmo ottenere invece con ciò che possiamo fare noi. La Bibbia invece è più che chiara sulle priorità e l'importanza che la preghiera dovrebbe avere nelle nostre vite. Giacomo ci dice: non avete perché non domandate. Giacomo 4:2, sottointendendo che il fatto di non domandare ci privi di un qualcosa che invece avremmo. Non avete perché non domandate, è semplice. Anche Gesù dice: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Luca 11:9-10. Gesù stabilisce un chiaro collegamento fra il fatto di cercare le cose e riceverle. Quando Dio minaccia di punire il suo popolo a causa del suo peccato, dichiara in 2 Cronache: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Se e quando Dio, quando il popolo di Dio prega con umiltà e pentimento, allora Dio li ascolterà e li perdonerà. C'è una causa e c'è una conseguenza. Le preghiere del suo popolo influiscono chiaramente sul modo di agire di Dio. È Dio stesso che lo dice. Alla stessa maniera, Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto. C'è una causa e c'è una conseguenza. Noi confessiamo, Lui perdona. Wayne Grudem, un teologo che ha scritto un libro di teologia sistematica, che è qui in libreria e ve lo consiglio perché è stupendo, nel capitolo sulla preghiera dice questo: se fossimo davvero convinti che la preghiera cambia il modo con cui Dio agisce e che Dio realizzi significativi cambiamenti nel mondo in risposta alla preghiera, come più volte la scrittura dice che fa, allora pregheremmo molto di più di quanto facciamo. Se preghiamo poco, è perché probabilmente, è tutto sommato, non crediamo davvero che la preghiera porti a grandi risultati. Per me questa è stata una bellissima mazzata. Perché mi ci sono rivisto in questo? Davide, Daniele, Neemia, Mosè, Abramo, e potrei andare avanti, hanno portato cambiamenti nel mondo, nelle nazioni, tramite la preghiera. E noi crediamo che è così anche per noi, quando pensiamo alla nostra nazione. E ora che ci siamo un po' depressi, un attimo, passiamo alla soluzione. Come posso far sì che la mia vita diventi una preghiera continua? O meglio, come posso far sì che la preghiera diventi il mio stile di vita? una cosa che sia per me come il respirare, una cosa che faccio e manco me ne accorgo, è la normalità per me. Torniamo al passo che ho letto all'inizio, perché giustamente voi mi sarete detto, ma questo l'ha letto così, e poi? L'ho letto per un motivo, ovviamente. E ho tratto fuori tre principi, e li ho chiamati il metodo e Maus. Quindi, se cercate un titolo per questa predica, anche se ormai è quasi finita, potete scrivere metodo e Maus. Che è fatto di tre punti? Il primo punto. Parti dal presupposto che Gesù è il primo che smania dalla voglia di stare e di parlare con te. Lui è interessato ad ogni minimo dettaglio della tua vita. E lo vediamo in Luca 24, 13, 19. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante fra Gerusalemme 60 stadi. Occhio alle parti in grassetto, che sono quelle che ci interessano di più. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a parlare con loro, a camminare con loro. Scusa, io già me lo immagino la scena, no? Questi discepoli, anche è Gesù, no? Che arriva, no? E comincia a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete voi fra di voi lungo il cammino? Ma quindi si è avvicinato, cominciato a camminare con loro. Che cosa state a dire? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo fra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E gli disse loro: quali? No? Mi piace troppo vedere come, ovviamente, Gesù sapeva benissimo tutto, ma poi si avvicina e pone loro quelle domande. Perché? Per far sì che loro si aprano, per far sì che loro si confidino con lui, per far sì che loro dicano a lui le cose che li turbavano. È ovvio, no? Fatto poi quando dice: come solo tu non hai saputo, lui era Gesù, come solo tu non hai saputo le cose che sono accadute? Quali? No? Alla stessa maniera Gesù vuole camminare con te durante tutte le tue attività quotidiane. Non dobbiamo necessariamente andare al rifugio o alla foresta pluviale o da qualsiasi parte. È buono tutto quanto quello, è buono. Ma non dobbiamo necessariamente arrivare a quello, quando noi possiamo vivere la nostra quotidianità camminando con Gesù costantemente, a lavoro, a scuola, nella pausa pranzo, con gli amici, con la famiglia. Lui è sempre accanto a noi, è sempre lì pronto a dire: di che cosa state discutendo? Posso dire la mia? Galati 4, 6, 7. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida: Abba, padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei erede anche per grazia di Dio. Abba, padre. L'abbiamo sentito negli scorsi messaggi cos'è. È un nomignolo, è un nome, un modo di dire aramaico per dire papà. Non padre, papà, ma questa connotazione di tenerezza, no? Di dipendenza, no? Voi sapete, io sono padre da un anno e mezzo quasi, sempre della famosa bambina di prima. E sapete, si scoprono lati del carattere di Dio Padre solo quando sei padre. Quanti padri ci sono qui? Sarete d'accordo con me nel dire che uno dei momenti più belli dell'essere padre, uno dei tanti, è quando quando tua figlia, nel mio caso perché è femmina, dice per la prima volta: papà. È vero. E non solo la prima volta, ogni volta. Magari sa dire tre parole e poi sono tutti versi. Ma quando dice papà e ti guarda così, succede qualcosa dentro, no? È una gioia sempre troppo bella. E io credo che con Dio è la stessa cosa. Io credo che Dio provi la stessa gioia, perché noi siamo fatti a sua immagine. Provi la stessa gioia quando noi diciamo papà. È pronto lui a dirci: che c'è? Che c'è, figlio mio? Io credo che lui lo faccia anche nelle sue imperfezioni. Nelle sue imperfezioni, scusate, nelle nostre imperfezioni. Anche quando, bene bene, noi non sappiamo come lo dobbiamo chiamare, come ci dobbiamo rivolgere a lui. E l'ho visto con mia figlia. Sapete che succede? Io torno a casa e la prendo in braccio. E lei cosa fa a volte? Guarda il citofono e dice: papà. Perché lei gioca durante il giorno col citofono come se fosse un telefono e chiama papà. E quindi poi che succede? Che torno io, la prendo in braccio, lei sta in braccio a me e guarda comunque il citofono, dice: papà, come se da lì può parlare. E sembra stupida come cosa, ma quante volte noi facciamo la stessa cosa? L'intero sistema cattolico anche si basa sul fatto che, pur potendo stare continuamente, costantemente in braccio a papà, noi abbiamo bisogno di un citofono per parlare con lui. E senza andare ora alla Chiesa Cattolica, poi per noi vale la stessa cosa. Quante volte cerchiamo quel qualcosa? Quando sarò tornato a casa potrò stare con te. Quando sarò uscito di casa potrò stare con te. Quando starò da solo potrò stare con te. Quando starò con tutti gli altri in chiesa potrò stare con te. Quando avrò la Bibbia con me starò con te. Quando ricarico il cellulare su cui ho sopra la Bibbia starò con te. Ma noi possiamo farlo adesso, ora, in questo momento, senza troppi schemi, senza citofoni. Secondo punto: studia la parola. A Luca 25-27: allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ed entrare nella sua gloria? E a cominciare da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Cosa fa Gesù appena si rende conto delle lamentele e della mancanza di comprensione da parte dei discepoli? Comincia a spiegargli le scritture, dove tutto era scritto. Quante volte noi diciamo: Gesù, perché? Non capisco, non riesco a sentirti. Io credo che Gesù è lì anche, no? Che fa un po' così. Hai provato a fare questo? Apri la tua Bibbia. È tutto scritto lì. Come affrontare la tua difficoltà economica. Come gestire i tuoi soldi. Come affrontare la tua malattia. Qual è il piano di Dio per la tua vita? È tutto scritto. La Bibbia non è un insieme di frasi miste fra baci perugina e biscotti della fortuna cinesi. Va studiata, va fatta propria. Quel passo dice che Gesù comincia a spiegare da Mosè ai profeti. Questo implica uno studio sistematico della parola, dove si può comprendere quali sono i piani di Dio per l'intera umanità e per la tua vita personale. Se hai difficoltà, trova qualcuno che ti aiuti, trova qualcuno che ti spieghi, trova qualcuno a cui fare domande, trova qualcuno con cui poter leggere insieme, e a questo affianca la preghiera. Martin Lutero parlava di pregare sulla Bibbia. Che vuol dire pregare sulla Bibbia? Vuol dire che quando leggi, prega e chiede a Gesù. Che vuol dire questo passo per me? Cosa vuol dire quello che sto leggendo per me nel 2016, nelle mie circostanze? Vogliamo alzarci in piedi? Terzo punto. Lascia che Dio parli. Lasciati stupire. A Luca 24, 28, 29. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta ormai per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. E ancora dopo, in Luca 24, 32, ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Troppo spesso noi ci approcciamo alla nostra relazione con Gesù con distacco, con sufficienza, come se l'unica cosa che veramente conta è quello che noi abbiamo da dire e quello che dobbiamo fare dopo. Non sto dicendo che non crediamo che Dio ci possa parlare. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che spesso non gli diamo il tempo. Sto dicendo che troppo spesso noi parliamo e noi ci alziamo e andiamo via. Perché quello che è la nostra vita è più importante. Perché c'è un sacco di cose da fare. Ma quello che questo passo ci insegna è che quando diamo a Gesù il giusto spazio, non vogliamo più smettere di stare con Lui. E io voglio fare un appello questa sera. Che tu abbia sentito di parlare di Gesù per la prima volta o per la millesima volta, che tu sia qui per la prima sera o per la millesima sera, io voglio pregare per chi vuole scegliere di coinvolgere di più Gesù nella sua vita. Per chi dice: da stasera, da domani, voglio che tu cammini ogni momento della mia giornata. Cammini con me. Lo so, perché dice, lo so che c'è di più. Lo so che c'è di più. Voglio cominciare a viverlo. Io voglio fare questa scelta. E vedo che Gianmani si alza. Voglio chiedere se tu vuoi fare la stessa scelta questa sera, di alzarla con me. Signore Gesù, noi vogliamo camminare con te. In ogni momento delle nostre giornate, ti chiediamo perdono. Se ti abbiamo chiuso in una scatola, noi vogliamo vivere ogni momento delle nostre giornate con te. Noi vogliamo sapere in ogni momento tu che ne pensi delle nostre circostanze, di ciò che stiamo vivendo. Noi sappiamo che tu hai la soluzione giusta per noi. Noi sappiamo che tu sei la soluzione giusta per noi. Basta depressione, basta ansia, basta stress. Noi vogliamo essere come quei bambini piccoli che ti guardano verso l'alto e dicono: papà. Vogliamo sentirti, vogliamo di più di te. Vogliamo che tu parli al nostro cuore. Vogliamo darti spazio per parlare al nostro cuore, per ascoltare ciò che tu hai da dirci in ogni singolo momento delle nostre giornate. Vogliamo camminare con te e vogliamo che tu cammini con noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.